onda Shabalon, un programma di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone, alle riprese video Valeria. Questa è quella che mi impegna di più come sigla, veramente. Finisce così la sigla, non sì, mi ricordo più. Vai con la musica. Sto parlando e buonasera a tutti, quindi inizia ufficialmente Shabalon, come potrete, puntata numero 12. Un saluto agli amici che ci stanno ascoltando in podcast in registrata, a chi ci sta guardando in diretta sulla nostra pagina Facebook e anche a chi ci guarda in registrata sulla nostra pagina Facebook. È venerdì 13, in altre parti del mondo stasera si toccano. Noi invece affrontiamo dei temi, come sempre siamo sul pezzo. Ma iniziano ad arrivare gli ospiti. Attenzione. Allora, alzati per il Marcello e iniziamo a farli a sedere, a accomodare. In ordine di importanza. L'allenatore della Cifoiano, prego, Mr. Briggs, qui accanto a noi. Sì. Ok, questa è la prima volta che facciamo. Prego. Si può stare anche a sedere. È una puntata work in progress perché vorremmo fare anche delle sfilate, dei defilé. Vediamo come viene. Ora che l'ho lasciato solo. Ora facciamo tutta la puntata. Arrivano. Eccoli. Non siate timidi. Uno dei più importanti dirigenti, Andrea Merighi, ma soprattutto il presidente. Super presidente. Che si accomoda. E una serie di dirigenti applausi a scena aperta. Puoi scorrere un po', Luca, vai, così almeno vediamo se riusciamo a entrarci un po' di più. Cioè, volevo dire slittare. Accorcia. Aspetta, questa è veramente accorcia. Allora, ci sono già stati alcuni saluti, tra cui quello di Francesco Salvatore, che ha letto con la febbre e che non può essere con noi, siccome ora ci mettiamo d'accordo, intanto facciamo andare una canzone che noi non sentiremo, ma intanto va. Sì, è già partita. Ah no, la musica. Forgive the kids, for they don't know how to live. Run the alleys casually, we'll San Vincent era con Cruel dal disco del 2011 con Strange Mercy. Yes. Hai visto? Stasera Enzo, grande sport a Chabalon. Grande sport, veramente. Prego. Qui ho introdotto. Allora, come abbiamo già ormai detto da alcuni minuti, parliamo della nuova Cifoiano per tanti motivi. Intanto perché era giusto farlo, abbiamo parlato di Marcello. Molto meno importante. Esatto. E poi perché, e quindi perché è giusto un po' fare il punto della situazione della squadra che dà più lustro a livello calcistico nel nostro paese. Perché... E anche perché noi siamo testimoni che fa movimento. Non solo per il tipo di gioco che fa, perché se giocavano a scacchi non era grosso movimento, però voi fate finta. Il fatto che ci sia una nutrita rappresentanza, perché ci è toccato lasciare a casa diversi soggetti che volevano a tutti i costi venire. Scusa, lo potrei prendere come tattico. Se non è una un'offesa, io metto il coach. Il mental coach magari potrei anche. Lo metto in tribuna i telefoni. A proposito, già da domenica questa cosa succederà. Ma questo vorrebbe dire essere la frutta, secondo me. Però spero che tu non abbia mai bisogno, insomma, di Marcello, perché lui del calcio ne sa ben poco. Ma vogliamo presentare i nostri ospiti? Ma dai, vai. Iniziamo con l'allenatore della nuova Cifoiano, Luca Brini, detto The Bricks. The Bricks dicono. Poi ti facciamo uno per uno? Vorrei presentare Andrea Merighi, che voglio lasciare direttamente a lui dire la sua funzione all'interno della società. Perché sei un umile o perché non la sai? Sono un umile. Per me è la seconda, perché non la sai. Una carriera folgorante partita dalla friggitrice, allora. Ecco, no, perché... poi è arrivata il merchandising. Ecco, la direzione marketing. E anche... Ma hai lasciato la friggitrice o continui anche in friggitrice? Non lo so, cioè, non lo so se mi ci riesco. Pare che la friggitrice l'abbia portata a casa per la gioia della famiglia. Sono sincero, mi sto allenando per la sala del frigo. Questo potrebbe essere una minaccia. Anche novità importanti come il termometro elettrico, per misurare le temperature. Conoscendoti, non ho dubbi su questo. A seguire abbiamo il presidente Claudio Mangani, il nuovo presidente. Il quale aveva l'incarico della friggitrice prima ancora. Diciamo che si parla di rimasta la friggitrice. La friggitrice è rimasto il forno e la cucina. Siamo da parte il presidente, perché è presidente? Perché comunque deve avere le mani in pasta. E quindi la frittura. Poi abbiamo. Abbiate pazienza, il nome non me lo ricordo. Mirko, non mi ricordo. L'ha detto stampa ufficiale. Ah, assolutamente importantissimo. E del santo Mauro, un noto dirigente, ma soprattutto anche una grande bandiera della Cifoiano. Io non dimenticherò mai le sue scorribande sulla fascia. Le punizioni. E le punizioni. Quale fascia? A gioco fermo, sinistra. E le pedate. E le destre. Chi ci ha messo il carone? No, non lo so. E come ti ci trovavi sulla fascia sinistra essendo destro? Ho dovuto far posto a un libero, perché giocavo libero. Non ero io. Ah no, non eri te. Guardavo dalla panchina. È stato anche lui. Quindi da queste poche battute comunque penso abbiamo capito che qui c'è anche l'esperienza, perché non è che solo con la friggitrice sicuro, l'astronomia c'è poi. Esatto. Quindi voglio dire, è gente che parla di cose che sa, che ha vissuto e che conosce. Al contrario tuo. Io sono partito assaggiando la frittura. Sì, esatto, perché te nemmeno la friggitrice sei arrivato. Io la frittura. La frittura. Ma io, se ricordo bene, perché ho avuto occasione, mi pare di ricordare che il primo approccio dell'allenatore Brini al mondo del calcio, dello sport, sia stato, come un po' tutti a quell'epoca, con l'album delle figurine. Non so se risponde a verità. Diversi album. Non uno, ma un po' tutti, diciamo. Aspetta che io intanto continuo a salutare, mi è sparito tutto. Augusto Serluca sta guardando da qui e anche dal cellulare. Per cui... Se una cosa lo gratifica, lo puoi anche inquadrare. Aspetta, ce ne sono tantissime. E ora volevo salutare un po' tutti. Roby Scali, Fabio Croci, Giancarlo Tavanti, Edi Foglianesi, insomma ce n'è una marea che ci stanno seguendo, grazie. Può iniziare a spogliarsi. Siamo già 15, quindi poi iniziare a spogliarsi. Sei a rischio. Oh, allora, perché vorremmo provare a farla questa trasmissione, perché però hanno parlato di fritture. È già segnato. Innanzitutto possiamo dire che domenica, tra l'altro, ci sarà un grandissimo match, una partita di cartello, rompi l'obiettivo. Una partita di cartello, perché il Foiano andrà ad incontrare la prima in classifica e la strafavorita del Foiano, che è il Montepaschi. Ma noi non abbiamo paura di nessuno. Ecco. Ma sì, perché? Perché vogliamo cominciare a dare qualche numero, qualche dettaglio, perché stasera la puntata zero, diciamo, per la C Foiano non è anche per noi. Si parte da quale situazione di classifica? Chi ce lo vuole dire? Non l'allenatore. In questo momento non conta la classifica. Non la guardiamo. Facciamo finta che il campionato inizi. È lui, ma sai che è lui via del portaio, sai come sono fatti. Chiamate a parlare di cose che non conosco. Allora, no, ma se volete dirlo voi, a parte tutto, succede che non la guardiamo, però siamo ultimi. Ma ancora per poco. Okay. Anche perché avete questo trittico. Ma noi di perché partite. Siamo voluti partire così penalizzati per creare più suspense al campionato. Così quando raggiungeremo la salvezza sarà come aver vinto dei campionati insieme. Quindi giusto, Luca. La dirigenza ci dice che Foiano è la squadra da battere, ovviamente. Da ora in poi sì. Okay. Ah, ecco, no, lo dico degli ospiti. Pare che siamo gli ultimi. Bravo, bello. Quando sentite questo scicalino è perché qualcuno sta scrivendo e Brunero Falchi dice il Brini, l'Allegri de Foiano. E questo è un bel complimento. Ora, di là di tutto, però, per quello che ne conosco io, dal fatto di essere allegro, siamo a 21. E allora, Marcello, signore è sceso, ma eravamo arrivati a 21. No, 22, 22. E Marcello, finalmente, finalmente si toglie il primo abito. Lo faccio senza musica di sotto. Volevo mettere il nero perché sfinava, me l'ho lasciato il bianco. E siamo arrivati a 3 immediatamente. No, scherzo. Questa si è fatta stasera. Mettilo via, eh. No, se arriviamo a 30 si toglie la camicia, ragazzi, eh. Quindi ragazzi, fuori c'è meno qualche cosa, perché... Ma secondo me è il forno. Sì, di for parmigiano. Come si fa a giocare, hai visto? Ora mi fai stare con la trippa tirata dentro, col fiato tirato tutta la sera, veramente. Allora, ripartiamo. La società, facciamo finta adesso la trasmissione seria per 3 minuti, Modello Sky. Allora, la società è stata rifondata, nel senso che comunque siete una dirigenza pressoché nuova, quasi quest'estate. Ragazzi, se dico cavolate, ditemelo tranquillamente. Raccontateci un po' da dove siete partiti. Lo dico io, da campo sportivo. Sembra una banalità, in realtà si riparte sempre da lì, dal punto focale dove si svolge la manifestazione. E vi siete guardati negli occhi e che vi siete detti? Ma che si fa? Si fa finire il calcio in Foiano? Non sia mai. No, la gente tutta no, il calcio deve continuare, Foiano, il calcio deve continuare. 70 anni. Sono 70 anni che stanno e il Foiano fa calcio, se è possibile che chiudere il calcio. E una decina imbecille, quello di imbecille. Ma non lo diciamo. Generosi. Audace. 10, 20, quell'altro, quanti saremo, quanti siamo, non so, preciso, non lo so. Anche ignari. Siamo ignari sulle maniche. Inconsapevoli di quello che andavano incontro. E si è detto ripartiamo. E come si riparte? Da zero. Diciamo che più indietro di zero non ci si va. E quindi è un buon punto di partenza, secondo me. Siamo iniziati a lavorare. Si è fatto la nostra sacca del fritto. E dove, da dove sono venuti fuori calenti? La base è sempre lì. E quello è la gastronomia della società. E dopo lì dice: allora si è partito col calcio. E siamo partiti col calcio. Siamo partiti piano. Siamo partiti da alcune bandiere di Foiano. Mister Brini. Vi ricordiamo che prima di quest'anno ha vinto un campionato di promozione. Prima ancora ha vinto la coppa di prima categoria portandoci in promozione, quindi diciamo che era naturale che Luca più quotato che c'era nella piazza, nonché l'unico matto che poteva venire in allenatore. Bella la risata di bella la risata dell'allenatore. Punto vorrei veramente leggere i pensieri. La verità, il più quotato e anche il più matto, perché Luca quando è venuto a allenare il Foiano avevamo solo un giocatore. Sì. Il campionato, te considera sì. questo qui, l'iscrizione, il presidente, correggimi. Scadeva penso il 7 di luglio. 13 luglio. Noi il 30 di giugno, quando abbiamo deciso di iniziare questo percorso, avevamo un allenatore, avevamo uno staff con Bignozzi e Valdambrini. E zero giocatori. Forse un giocatore aveva detto che forse veniva, forse, però dovevamo vedere che se venivano anche gli altri. Se c'era da fare. Goracce. Forse Goracce. E quindi, diciamo, proprio all'arrembaggio sì. totale. Poi ci siamo guardati in giro, abbiamo cercato innanzitutto di fare un ragionamento basilare e di coinvolgere soprattutto i ragazzi che giocano a calcio, che possono giocare in eccellenza del paese. Abbiamo chiamato Zacchei, Tiezzi Guglielmo, Mostacci. Tiezzi Filippo, Mostacci Luca. Questa è una cosa, a parte faccio il serio per un minuto, molto apprezzata però dai foianesi il fatto di aver riportato veramente a Foiano un sacco di ragazzi o non più ragazzi a guarda, giocare. Premetto ragazzi squadra. Che possono fare la categoria. Assolutamente. Non è che sono ragazzi che giocano a Foiano perché sono di Foiano. Sono ragazzi che possono fare l'eccellenza. Ecco, ma a questo proposito, visto che come dici avrebbero comunque potuto giocare anche in altre squadre, la risposta è stata... Alcuni sinceramente hanno fatto una scelta, tra l'altro alcuni ragazzi avevano già preso degli impegni con altre società, magari verbali, magari hanno fatto un passo indietro, magari hanno rinunciato anche a qualcosa per scegliere il progetto che il presidente Mangani gli aveva proposto, e quindi questo gli va dato atto. Tra l'altro ci sono anche degli innesti, io vengo spesso... a vedere anche di ragazzi, proprio ragazzi che non sono foianesi, molto validi, ora non ricordo i nomi, abbiate pazienza. Io sono sincero, insomma, tra noi ne parliamo sempre, noi siamo ultimi, ma noi con la squadra che abbiamo ora, non siamo da ultimo posto, quindi ora c'è una parte un po' di enfasi. Certo. No, però aspetta, guarda, se però è un messaggio importante, secondo me, Andrea, perché è vero che è un gioco, come dico ai ragazzi, però è un gioco che coinvolge tante persone, che ha un impegno da parte della società, perché dietro a Claudio, che Claudio l'impegno massimo lo mette lui, però dietro ci sono 20-30 persone che lavorano tutta la settimana per fare il calcio a Foiano. E per quello che dicevi adesso Andrea, c'è anche diciamo da rendersi conto che se ci sono le capacità fisiche e tecniche, spessissimo è anche una questione di testa. Quindi un messaggio magari che si può anche mandare a chi... scende in campo tutte... io sono sicuro se dovevano venire dei giocatori no stasera, sono sicuro che sono in ritiro per l'impegno che infatti hanno. Io questo non lo volevo alle sperare pare siano le vertigine. So che da questo l'ho capito, questa è una cosa che ho capito, che la partita di domenica è importante, il ritiro, diciamo, poche distrazioni sono fondamentali per essere concentrati. Anche il mister ora arriva subito in monastero, ma io l'ho visto concentrato sul fegatello, era concentrato. Aspetta che salutiamo allora notevole. Ricordiamo che siamo alla Costa di San Rocco, abbiamo mangiato veramente bene e purtroppo per quanto mi riguarda anche bevuto è per quello che impasto un pochino. Salutiamo Nello Giustini che dice non molti capelloni e capelli bianchi, vedo, però un applauso a tutti. Esperienza, si chiama esperienza. Mi dicono di andare, ti dico, orca miseria, in su. Aspetta che devo Federico Pulcinelli, fai te. Perché devo salutare altre persone, che dice Claudino Mangani, il presidente più bello della terza, dalla terza alla Champion. Grazie, Bucciarelli. Riccardo Bernini, Sara Lucaroni, Antonio Vultaggio dice Marcello, digli al presidente che se si vince domenica offro la colazione a tutta la squadra, pasta e caffè. Beh, ti prendiamo in parola. Prendiamo Luca in parola. Sondri, un saluto Roberta, io li saluto tutti, siamo a 23. Si potrebbe arrivare a Roberto Menchetti, si potrebbe arrivare a 30. Dopo mi prende la bronchite, però. Domenica la fai da solo. Però prima di arrivare alla partita domenica, che in questo momento è quella che ci interessa di più, volevo dire un'altra cosa. Ricordiamo anche però gli inizi di quando sono arrivati al numero fatidico, diciamo, degli 11 giocatori. Avete tirato un sospiro di sollievo. E adesso ha detto, ora basta, sciolti, via, oppure cominciamo la preparazione. Luca, vuoi dire qualcosa su questo? No, con che spirito, a parte tutto, ti sei preso in mano questa, non patata bollente, ma insomma, inizialmente una patata bollente. No, anche ora. Anche ora. Si tratta sempre di... Due minuti c'è. Allenare una squadra che fa l'eccellenza, certo. Cioè, è il campionato più importante dei dilettanti. quindi io devo ringraziare questa gente che ha pensato a me, non inversamente. Vedi, quando poi, qui, poi noi ci imbarazziamo perché dice cose serie, sì, quindi sì, rimaniamo un attimo. No, le però cose che davano a certo, certo, certo. Insomma, non è uno che vado ad allenare una terza. Certo, certo, certo, certo. E poi, tra l'altro, qualche problema c'è stato, e c'è tuttora, è chiaro, siamo ultimi, abbiamo 12 punti, ma noi siamo fiduciosi. E questo ci fa piacere sentirlo dire da tutti quanti, in primis dal mister. Tra l'altro, la società è... ha portato avanti quella che è la tradizione anche di un settore giovanile, sì, importantissimo, sì, che secondo 250 ragazzi, ecco, questo secondo, sì, me è un valore per proprio il, per il paese, sociale, esatto, sociale, oltre che per quanto riguarda risultati o no, insomma, 250 ragazzi è un impegno importante, responsabilità, e quali campionati fate con i ragazzi? L'Unione Regionale, allievi provinciali, allievi provinciali, poi c'è i giovanissimi, le squadre giovanissimi, esordienti, i primi calci, quindi, scuola, cioè, calcio, praticamente abbiamo ragazzi dal 99, nel 98-99 fanno la juniores, fino al 2001-2002 che fanno scuola calcio. 2011 fa la scuola calcio. Anche Marcello. Io infatti mi posso inserire consapevolmente su questo argomento, perché non è soltanto diciamo la prima squadra che è un patrimonio che è stato tutelato, ma anche tutta quella fascia giovanile che in un ambiente sano, un ambiente organizzato, sia per chi, per i ragazzi, ma anche per i genitori, dà una garanzia, certo, di poter essere tranquilli se stanno a fare sport con personale qualificato e diciamo anche in una struttura che non si improvvisa. Quindi di questo anch'io ne sono testimone. Esatto. So che, diciamo per esperienza, che anche tantissimi altri genitori sono fortemente motivati e supportano questa iniziativa, quindi no, tanto di cappello. Esatto, esatto. Volevo fare una domanda a Mauro. Oh, ecco un ospite, vieni, vieni. No, ora no, ora no. No, ma vieni dopo, prima bevi, vai. Come sempre. Volevo chiedere a Mauro, che appunto dicevamo è stata una bandiera della Cerfiano negli anni 30. Quanto è sventurato. Com'era essere sul Pegnone? Quando giocavate con pantaloni lunghi. No, a parte le battute. Negli anni 80. Anche 70? Ma eri ragazzino negli anni 70, sì. 70-80, via. Come fare... Ora la domanda può sembrare... Fare il dirigente, perché fare il dirigente a Foiano? Non a Foiano, perché fare il dirigente? È una passione che non muore mai da quando sei calciatore, oppure ti sei allontanato, poi sei tornato? No, è cominciata per caso. È cominciata per caso, perché dopo aver smesso di giocare sono stati degli anni, anche lontano. E poi ci siamo ritrovati, un po' di amici, si è creata la condizione giusta per ricominciare. Ti hai iniziato facendo il cameriere o in friggitoria? No, infatti, volevo dire, secondo me l'ha presa di punta con la friggitrice, perché non arriva la friggitrice. Io non stacco. Io sono il caposala, sono stato il caposala. Allora, mi hanno superato. Tieni le relazioni con il pubblico. Esatto. Okay. Te, Mirko, invece, che ruolo avevi in cucina? No. No, come te sei più giovane di loro e da qua... Ma non di tanto, da quanti anni è che sei con il Foiano? 3-4 anni. Il ruolo, abbiamo detto, sei l'addetto stampa, sì. Quindi responsabile delle varie comunicazioni. Responsabile Facebook. Responsabile Facebook, quindi un collega praticamente. E leggo a volte, mi capita spesso insomma, di leggere anche le tue cronache appassionate, si vede che c'è la passione per la squadra. Sì, è il mio paese, il mio... dove sono nato, dove sono cresciuto, quindi mi fa piacere essere dentro a questa situazione. È proprio una passione grossa, perché considera, Marcello, lo dica a te, praticamente vuol dire non avere più una domenica disponibile da libera da settembre a maggio all'incirca. Quindi voglio dire, insomma, dedicate... Per alcuni sabato e domenica. Per alcuni sabato e domenica. Come la juniore, sei la prima squadra, sabato e domenica. È vero, anche perché i dirigenti devono seguire non solo la prima squadra, ma anche gli altri. Quindi praticamente è un'attività che vi coinvolge praticamente 360 gradi. Non so, c'è il sindaco che ci sta seguendo, tra l'altro. Ecco, no, ci segue con fascia tricolore. Senza fascia tricolore. Da appassionato. Cioè, non lo so, ora magari se non ci scrive il sindaco. Francesco, dici se in questo momento ci segui da tifoso della Cifoiano o da istituzione, perché guarda, ci fa piacere. Ci sono già 6 persone che stanno condividendo il video, fate bene, perché più condividete, prima arriviamo a 30, così si spoglia. Marcello, salutiamo anche il Ciucca che ci sta seguendo, Alessio Magi. Augusto Seduca continua a seguirci incredibilmente. Maurizio Tacconi, io sono Mauro Nucci che dice grande Claudio, hai dei fan, c'hai proprio fan. Sebastian che dice ci salveremo. Scusate, vado, faccio un pochino un dirigente, non vi vorrei illudere. la determinazione viene fuori da chi ha la responsabilità, quindi Se ci crede, voglio dire. No, poi, secondo me, Enzo, se qui nasce veramente un movimento anche attraverso di noi, attraverso Chabanon, poi qui la cosa dilaga. E infatti, dovremo forse fare anche delle iniziative. E infatti, io stasera stiamo un pochino facendo una trasmissione particolare. Non abbiamo messo ancora un brano, siamo a 30 minuti. Ma credo che l'audience sulla Chabanon sia sia alta proprio per allora, questo. Facciamo così: ora mandiamo un brano. Intanto noi prendiamo da bere c'era il caffè offerto. E anche il dolce, vabbè, insomma, facciamo un po' ognuno i fatti sua. Prendiamo ancora da bere. Ancora da bere, tra l'altro voglio fare questa e chiaramente natura. Dopo anche di ieri, presidente. Emozione. Aspetta. Poi anche applausi, guarda. Continuate a condividere. Allora, io vado a ordinare il caffè, intanto mandiamo un po' credo, di musica. Credo, Enzo, che prima, sul finire della trasmissione, verrà anche enunciata, quella sarà la formazione che domenica il mister domenica metterà in campo. Di modo che gli avversari cominceranno ad avere paura già da stasera. Se il mister ride così... Thank you. lancia immancabile come tutti i venerdì Jeanne d'Arc con Lost My Life di un album del 2016. Siamo a 31 marci. Aia. Un paio di bottoni vanno sbottonati, te lo dico, eh. Ma non so quello che potrebbe uscire. Ma dove vai ora, scusa? Mi ha chiesto qualche caffè. Un caffè, ah sì. Saremo in onda. Gentile avventure ha chiesto un caffè. Saremo ragazzo. In onda, ma scusa se ti passo davanti così. Però, allora, facciamo così. Mentre rientrano tutti, che è una trasmissione un po', diciamo... Un po' sbagliata. Ognuno fa quel che gli pare. Chiediamo, per chi ci ha seguito, Augusto, che è un nostro... che è il nostro pubblico, praticamente. Il pubblico. Ha chiesto a Mr. Brini se può diminuire... le giornate, le espulsioni che pare quest'anno, pare, io pare ingiustamente ti vengano in tutte. Che cosa hai da rispondere? No, devo dire che ne ho prese solo tre, eh. Su, ma una da un mese, però. Tre per volta. Perché è un fascinoroso del caso. Ma non è un fascinoroso. No, su 15 9 c'è stato fuori. 9 giornate. Gli arbitri, gli assistenti non hanno capito, non sono di nuovo, non capisco. Penso sia il nostro ambiente questo, adesso forse bisognerà stare attenti. Mai. Cioè, te praticamente mi hai buttato fuori dicendo lei non ha capito che io stavo scherzando, cioè non sei compreso. Mia moglie dice che sono, come si dice, da detestare quando faccio così, quindi secondo lei fanno bene. Ah, ecco, è bene essere se lo dice la moglie in casa. Ma pare, secondo qualche me lui fa, guardali, forse fa così perché è la stagione che lo porta, che stai fuori è peggio, invece lui va dentro. No, devo dire che in tribuna le partite si vedono meglio, quindi sei più coinvolto. Però sotto un altro punto di vista sei lontano dal campo e comunichi peggio. Ricordiamo che il vice allenatore, il grande Arrigo Vignozzi, stasera non è qui con noi, ma salutiamo, ecco, in questi... nonché i grandi fans di Sciabalone. Ma scusate, grazie. In questi casi che succede? L'allenatore capo espulso, l'allenatore capo, cioè, tanto per far capire proprio quanto noi può comunicare, può comunicare questo head coach, ecco, può comunicare come il sostituto o no? Ufficialmente no, non si può comunicare. Te non puoi avere il telefono in panchina. Che tristezza. Però poi in qualche modo te limitano la libertà. Questo. Ci sono altre forme, segnali di fumo. Esatto. Piccioni, cimicchi. Come c'ho l'asso. Metti tre. Quando c'è da fame, il gobbo fa entrare 10. Crea rigore. Fai, tira sulla spalla. Che ore sono? Scusate, solo per capire. Un quarto alle 11. Ancora non si è detto. No, qualcosa si è detto. Ora. Veniamo all'attualità, alla stretta attualità. Allora, fermi tutti, devo leggere un attimo mentre rientra il presidente. Abbiamo Nicoletta Curtesan, che dice grande Enzo, grazie. E Stefano Giustini dice Enzo, te non puoi capire che sei troppo di parte, però non so che cosa. Marcello, grande specialista. E Andrea Fede dice Brix, di a tutti chi fa la veramente la formazione. Guido. Sì, ecco, è un personaggio fondamentale. Ci puoi svelare questo? Parlaci di questa cosa. Questa è una cosa tattica, Luca. Non quando so ci se... sono discussioni anche dentro di me. Quando sei lì davanti allo specchio. Ci sono discussioni dentro di me. Chi sarà meglio a giocare? Chi è meglio far giocare? Questo giocatore o quell'altro, lancio la palla a Guido, che è il mio cane. Wow. Fantastico. E ti risolve il dissidio. No, mi fido ciecamente. E ecco, i risultati poi gli danno ragione. Quest'anno poco. Ma perché forse non lo altre capisci volte bene. Hanno portato risultati. Scusate, vado a zoomare una foto. È invecchiato, 11 anni. Che razza è? Border Collie. Guarda, faccio una zoomata qui un attimo. Qui abbiamo, poi vi faccio vedere anche a voi, un grandissimo giocatore, che è il mister. Qui siamo nell'anno. Accanto abbiamo anche Ciglione, che è un dirigente. Questa è la prova che ho avuto capelli... Anche te, grigi, neri, è vero, sì, è vero. Poi qui ci sono... Sai, è una questione di colore. Io ho quella della comunione che prova che le ho avuti. Sì, sì, certo. Meravigliosa foto. Chi c'è vicino a me? Vicino a te c'è Ciglione. No. Eh sì. Questo è il destino, Luca. Non lo conosco neanche. Oh, mi sono perso. Aspetta, sì, siamo intanto... arrivati al Guido, no, che Guido risolve il problema. Che risolve le informazioni. Che risolve il problema. Che lancia la palla, dice il nome del giocatore. Se Guido la prende, fa, mi sembra, fra i due. Mi sembra un buon... Che e poi avanti, è finita finché non la prende. Ok. Avevo un giocatore a Termontola, si era ripromesso di venire a Foiano ad ammazzare il cane perché non perché giocava, perché non mai giocare, te la prendi con me, scusa, con Guido. Allora l'ho beccato sotto la doccia, che faccio io quel cane, lo devo fare, gli ammazzo il cane. Meraviglioso. Tuttora ogni tanto alle 3-4 della notte qualche volta sento Guido. So chi è. Certo, certo, è chiaro, è chiaro. Guido è incredibile, veramente è sotto scorta. Guido è incredibile, la preparazione. La, non conta niente. L'organizzazione. Poi c'è un cane. La devo, l'importante, esatto, è avere il cane giusto. Esatto, bravo, bravo. Col fiuto giusto. Ma è prenderne uno da tartufi, no? Potrebbe essere più remunerativo. Ma ti risolve parecchi problemi, però. Allora, poi passiamo alla prossima domanda intelligente. Però devo dire altre due cose. Aspetta, chi c'è? Simone Marini, Giuliano Giustini, Francesco Messina da Siena, Paolo Pantani, grande esperto, che saluta il Brix, ecco, grande esperto, ecco, di calcio. Ho allenato anche Paolo. Ecco, ecco. Beh, voglio dire. E Guido? Che ne pensava? Ha detto di sì, l'ha fatto entrare Guido. No, ha preso la palla. No, non entrava. Ecco, mi dicono, mi chiede Riccardo Magi. Scusa Enzo, chi era il capitano nella foto? Devi ridare la foto. Penso, ma di, io credo, penso che, di sapere già la risposta, perché se no l'allenatore ce lo possa dire. Ma Riccardo, perché... me l'ha data lui a me. Era volta. Riccardo Maci, allora sicuramente. Non lo so, non penso. No, riapriamo la foto. Poi creiamo un caso stasera. Poi passiamo a parlare della gara di domenica, che ha tante sfaccettature, tanti risvolti, tanti risvolti, sì. Importanti. Tra l'altro, non so, ma a livello di calcio mercato come siamo? Chiuso. È chiuso, quindi è inutile parlare, diciamo. Beh, però voi avete allora, facciamo, riproviamo a fare due cose mentre io e Luca facciamo i fatti nostri. Chi era il capitano? Il capitano è questo? La fascia era qui? No, no, no, quello è un cerotto. Quello è un cerotto. Allora non c'era il capitano. Scusate, è un momento altissimo. Chiediamo a Riccardo Maggio. Riccardo, diccelo te chi era il capitano, perché noi non riusciamo a individuarlo. Ma di solito ero questa squadra lì. Allora, sarà stato un fotomontaggio. C'era anche Francesco Sommati, può darsi sia lui. No, non è già quella fascia. C'è anche Francesco, sì. Va bene, ma proviamo ad andare avanti. Diciamo la storia. Noi ci interessa l'attualità. Ecco, e l'attualità il prevede innanzitutto dei nuovi arrivi da poco tempo. No, no, sì. Ha detto che arrivavano, ma non è. Qualche tempo fa sono arrivati. È andata male la strada del fritto. Allenatore Mauro Pasqualini. Ci siamo ridotti. No, però qualcuno è arrivato non troppo tempo fa. Niente, qui bisogna, scusate, ma Riccardo Magi, io credo il sindaco, dice. Quindi, Francesco. Quindi aveva la fascia tricolore, ovviamente. Cerotto tricolore in questo caso. Perché... Dal braccio al collo. Allora, veniamo appunto alla partita di domenica. Domenica c'è il Montevarchi. Il Montevarchi a Foiano, che salutiamo. Però per amor di Dio, ci fosse per sbaglio un Montevarchino, ci fosse un Montevarchino, vedo che si riconosce. Mezzo Foiano, al quale l'anno scorso è andata molto. Bravo, di questo volevo parlare. Dirlo. Dillo. Si gioca con Montevarchi. Luca, dove venire? Ma l'allenatore fino al sabato mattina non glielo dico con lui. Quindi il Montevarchi, cioè, Guido lo sa già. Tutta la settimana, Luca, Guido lo sa già. L'allenatore. Allora, il Montevarchi è primo in classifica. Il Montevarchi ha fatto una squadra per sicuramente ambire alla prima posizione e alla promozione in Serie D. Ha anche una storia, diciamo, che lo vede meglio, esatto, in altre serie. Infatti, quest'anno la vince e ha attinto molto dal Foiano. Tant'è che nel Montevarchi ci gioca anche un giocatore di Foiano, non solo del Foiano, che non salutiamo. Diciamo le iniziali AM e basta, ma questo a noi non ci importa relativamente, Monash, perché trattandosi di un gioco di squadra, se la squadra perde, perde anche il singolo. Quindi domenica, che sarà sicuramente una bella partita, bella attesa, però vedrà, io tutti ce lo auguriamo, insomma, una buona una buona riuscita, non andiamo sul, sul... che ce frega se questo è andato a... Ciao Ale, no, salutiamo, sennò per ciao Ale. Perché sennò... perché tanto noi si tifa per il Foiano. No, siamo il Foiano, si tifa per il Foiano. Allora, loro hanno tanti punti, ma questo non è importante. Non certo. Guido che dice? È un po'... l'ho visto un po' preoccupato. Come è giusto che sia, perché uno si deve preparare... seriamente stasera al Nobolo devo sentire se ha mangiato tutto perché da quello cambia anche la formazione. Vabbè, però insomma ci aspettiamo tantissima gente, ma soprattutto facciamo un esperimento di cui Marcello ora ve ne parla. No parlane sì, va, forse è meglio. Allora domenica, grazie all'idea appunto di degli illustri e illuminati dirigenti della Cifuiano che dimostra un'intelligenza veramente, un acume eccezionale, incredibile, un buon gusto che fa paura, faremo una diretta della partita con Shabalon. Sì, dallo sì, stadio. Dallo stadio. Ora, non è proprio definito come. No. Diciamo una specie di diretta. Allora, facciamo... è una radiocronaca visiva, perché... per problematiche che non stiamo a spiegarvi, ovviamente non possiamo fare la diretta di 90 minuti della gara. È chiaro che il commento tecnico, Enzo, lo farò io. E questo quindi, è già acquisito. E lì, quindi, perché Guido non può venire? Perché sennò sarebbe stato 100 volte meno. Io vi potrei consultare anche con voi. Assolutamente dovrai. Perché sei, cioè... panche, sei in tribuna anche tu? No. Per ora. Il primo quarto d'ora dovrebbe farci. Vabbè, comunque se si viene che ci si diverte. Ha brutta fame, so. Si dice e vieni su. Ti ha massacrato. Però sarà uno spettacolo, credetemi, perché la partita sarà sicuramente bellissima, ma in tribuna lo spettacolo è assicurato tutte garantito, le domeniche. Quindi sì, noi ci metteremo a fianco dei vari dirigenti, chiaro, parleremo con loro, li vedremo soffrire. Daremo anche dei suggerimenti. Lui urlerà al mister cosa fare e lui giustamente farà esattamente il contrario, perché è giusto che sia così. Soprattutto quando Marcello scoprirà che sono in 11 a giocare per squadra. Ma tanti così. Però ecco, l'invito è venite tutti allo stadio, ovviamente che abbiamo bisogno del tifo vivo, quello caldo, quello è che sarà freddo. Chi non può venire, chi non potesse venire, lo sappia fin da ora che faremo la diretta Shabalon, non inquadreremo tantissimo il campo, staremo molto in tribuna e parecchio inquadreremo l'allenatore di spalle. Perché d'altronde sarai di spalle. Allora presidente, come va domenica? Domenica è dura, ma domenica si vince e sarà una bella scusa, no, no, perché una cosa, non si vince domenica, quando viene la urca miseria, no, attenzione, aspetta, abbiamo lo scoop, Calci, questo è l'effetto della scena, io non le devo per il contenuto, certo, no, ma noi siamo mai assodato che il Foiano vince, certo, è chiaro. Se no non andremo nemmeno noi a fare la diretta. Se noi, ecco, noi non c'è tempo da perdere. Se non vincete non... La posso fare una dichiarazione seria? Veramente, colgo l'occasione, certo, visto che ci segue tanta gente, siamo 30-35. No, ma saremo 1500 alla fine, però... Te stupirai quanti... Sì. di ringraziare veramente chi viene a vedere la partita. Che non ci è mai mancato il suo, parlo anche a nome della squadra, certo, non ci è mai mancato l'incoraggiamento dei tifosi, che a volte è stato veramente comune, posso fare queste cose, no ma questo, quindi è uno sprono per tutti i giocatori per dare il massimo. Queste sono, ora noi le cose serie ci imbarazzano un po', guarda, è difficile, è difficile venirne fuori, sono rimasto senza parole. però è vero ed è scusate, veramente, no ma infatti non lo rifare più, sarà detto. Però, sono cazzato. Però effettivamente posso testimoniare anche io, insomma, che ti è venuta così, ho pazienza, ma questa cancelliamo dopo, perché il profondo anche, no, però è vero, ovviamente tra l'altro il pubblico di Foiano è famoso un po' in tutta la Toscana anche per una certa classe e una certa plomb, no, contraddistingue. A volte... diciamo che segue la partita sempre con un certo distacco. Sì, infatti noi l'unico problema, a proposito, lo dico ora, siccome saremo in tribuna, quindi domenica seguire Montevarchi dalle 14:30, Foiano Montevarchi, ecco, siccome ci sarà un problema che il pubblico segue con un certo distacco, però ogni tanto inneggia ai santi numi, no? Non ora noi come, siccome, cioè, come possiamo fare per evitare questo? No, ma questo Marcello è... canterà ogni volta che sentirà partire una bestemmia, quindi sarà un programma cantato, ecco, diciamo, totalmente cantato, però sarà imperdibile, spargete la voce. Parliamone però con il responsabile. Guarda, fanno dei pullman per... io credo che potrebbero venire da, proprio dalla provincia per tra l'altro farmi. Marcello farà gli spalti del Montevarchi, che salutiamo, e io farò quelli del Foiano. Ho comprato un che colore ha il Montevarchi, Marcello? Ah, i colori classici, dai, me l'arcobaleno, quei pastello che quest'anno vanno tanto. Rosso verde, rosso blu, la ternana. Ah, rosso blu, la ternana. Ma che dici? Parliamone con il responsabile. Album Panini 79-80. La ternana era rosso verde, è vero, si hai ragione. E lui è finito lì. La conosce. Io ho solo quello. Anche io, tuttora questo. Sì, tra l'altro, per chi interessasse, ho pizza balla. Che quello era improbabile. Mirko, te che sei responsabile dell'immagine e della comunicazione, pensa te. No, pensa no, te no. Come... no, ma infatti, questa no. Scelta di abbinarsi a noi, insomma, dimostra. No, ma non per voi. No, ecco, noi ti intervisteremo, insomma, domenica, sappi che sarai. Te sei in cabina su oppure io sei in tribuna? Io sono negli spalti. Allora, al giro. Ecco, sarete tutti intervistati. Anche Brini, appena viene espulso, che viene su in tribuna. Ecco, semmai diciamo, per dare tempo di intervistare loro, diciamo cavallo tra il primo e il secondo tempo, se no non si fa parlare mai quest'altro. Mauro, invece dici il pronostico per domenica. Una fissa, su. Anche una doppia va bene, dai. Ma forse neve. È una doppia, questa. Forse neve. Applausi. Questa è una classica previsione. Beh, però più previsione di questa. Anche chi spera la chiusura del casello va di chiaro, Oh, che ore sono le 11. Teoricamente avremmo finito, ma ancora io direi 5 minuti. Ancora non si è detto quasi niente. No, facciamo così, facciamo una domanda seria. Volete parlare di qualcosa che non abbiamo menzionato e magari che vi fa piacere ricordare o dire? No, attinente all'argomento. Non lo so, dite voi, insomma, se ci stiamo dimenticando qualcosa, se c'è qualcuno da ringraziare, se c'è... come volete. Luca ha detto... giustamente che ringraziava tutte le persone che seguono il Foiano, perché sono anche quelle persone che poi, anche se non sono dirigenti, che poi magari non direttamente aiutano la squadra, ma che comunque hanno stimolato quei 20-30 persone che danno un aiuto maggiore a portare avanti il Foiano Calcio. E tra l'altro noi, quando abbiamo iniziato, abbiamo cercato anche di sensibilizzare, anche se non ce n'era troppo bisogno, i cittadini di Foiano a darci una mano. So se sarà iniziato, tra l'altro qui abbiamo anche degli abbonati presenti, senza fare nomi, penso. Abbiamo inizialmente raccolto un centinaio di abbonati. Scopro stasera che c'è la squadra. Ora sabona. Ti non ti ho nominato, Marcello. Ora sabona. Insomma, c'è stata una partecipazione, insomma, da parte del pubblico, testimoniano anche gli spettatori che abbiamo tutte le domeniche. Abbiamo sempre 200 persone a vedere la partita. E sinceramente per l'eccellenza, pensando che... siamo ultimi in classifica, insomma, chi viene a Foiano si guarda un po' in giro e dice: questi sono matti. Sì, sì, certo, una squadra di metà classifica non fa tutto questo, almeno sì, diciamo che più... come abbiamo sono detto, gli estremi, ma noi abbiamo studiato questa partenza un po' rallentata per creare io, ecco, punto, guarda, noi, io ti do molta fiducia sulla primavera. La primavera, cioè il periodo che ci aspetta, secondo me. Ah, ti vorrei avvertire, Marcello, che il campionato finisce a aprile. Non primavera, ecco, semmai organizzatevi un po' me. Non ti volevo deludere, ma il campionato finisce a aprile. Ecco, se vi posso dare un consiglio, non io mi organizzerei un po' meglio col calendario. Facciamo fine autunno, fine inverno. Ma forse se avete preso l'aria in corsa ora. Questa registra la deve rimanere come sigla iniziale, la battuta sulla finale. Vabbè, ragazzi, io starei delle ore con voi, ma lui poi alla fine si deprime veramente. Perché si rende conto di non sapere. Sono rimasto... se non lo fa alla fine loro. Guarda, siamo arrivati sulle 30. Questa richiesta dal presidente mi esalta, veramente. Dovresti farti vedere un po', però. Ah, anche Elena Giugnoli, Salvatori, Chirina, Alessandro Maurilli che ci segue sempre e che ha anche un programma che mi sembra di aver capito su una radio molto importante tipo la Rai, insomma, però vabbè, per dire, no? Uno come perde tempo. Ma ecco, che c'è da fare niente il venerdì. Che segui noi. Fai due risate con Sciabalò. Voi condividete questa puntata e anche fra tre giorni e avrete... Tanto amore. Tanto amore, tanto amore. Noi ringraziamo tutti. Bravo. Allora, l'invito è tutti domenica a Foiano a vedere la partita. A questo punto nessuno ha più scuse. Ecco, ragazzi, ricordatevi che a aprile finisce tutto. No. Cioè, questo è un problema veramente da federazione. No, però domenica tutti allo stadio dei Pini alle ore 14.30 a vedere Foiano Montevarchi, un testa coda che però riserverà grandissime sorprese dal punto di vista del risultato. Wow. Come vai? Wow. Io la lascio. Manda la sigla, dai. Ringraziamo tutti gli ospiti per essere stati con noi. È stata un'ottima cena, ma anche una trasmissione, credo, di qualcosa di intelligente, se vuoi. Ora a quest'ora no, finito. Assolutamente. Allora, Mauro Del Santo, grazie. Ci ricorderemo le tue scorribande sulla fascia sinistra. Sbagliata. Quando chi se ne è accorto che eri sulla fascia sbagliata? Ma non era sulla fascia sbagliata, andava. Claudio Mangani, presidentissimo. Grazie. E sempre alle Foiano. Mirko Zacchei. Grazie a voi. Andrea Americhi, che ha un po' tutte le colpe di questa cosa. Che era la friggitrice. Che era la friggitrice. E mister Briggs. Che insomma crede tantissimo. E un saluto anche a Guido, direi. Sì, che ha scoperto. È quello che forse è il compito più importante. Quindi, scegliere i giocatori. L'appuntamento con noi è nei vari appuntamenti di tutta la settimana. Grazie per averci seguito tutti. Come non salutare Augusto, che sta con noi tutti i venerdì. È ancora sveglio. Vabbè, sei mancato, ma poi sei tornato. E ora faccio questa sigla ignobile, quindi voi fate finta di niente. E sei pronto con la musica, Simone? Sì. L'appuntamento è per venerdì prossimo. Non sappiamo ancora l'ospite di venerdì prossimo, ma non importa. Anzi, chi volesse. Però, ci può proporre. Però per i prossimi due... Pare che ho un'indiscrezione che non ti ho annunciato, ma ormai la posso dire. Probabilmente avremo il Montevarchi. In trasmissione a commentare la partita di Foiano. Invece per i prossimi due venerdì poi parleremo ovviamente di carnevale, non potrà essere altrimenti, con i responsabili dell'organizzazione e con i presidenti, ma questa è un'altra storia. Grazie ancora a tutti. Grazie sempre a voi. Forza Foiano, e come dice il presidente, alle Foiano, giusto? Bene, sigla. Avete ascoltato e visto Sciabalon, un programma di e con Enzo e Marcello, e alla conduzione tecnica Simone. Une. Alle riprese video Valeria. Aerea. E con noi c'era tutto la Cifoiano. Ale. Al prossimo, ciao!